Sebastiano, tu bambino dal volto sereno, perché il pregiudizio ti rende diverso, ma il sole non è di tutti, alti, bassi, bianchi e neri. In realtà è il pregiudizio uno dei problemi veri. La tua purezza, che bellezza, la tua libertà di sorridere. L'incoscienza di vivere, di guardare gli altri senza pensieri, tutto quanto oggi come ieri. Sebastiano, se nessuno ti tende una mano, metti lo sguardo avanti e guarda lontano. Guarda lontano. Oggi non è una sindrome a preoccupare. Cieco è, però chi non ci pensa proprio a volerla affrontare. Le poesie si scrivono con il cuore, non è un sentimento che si può spezzare. Cresce la speranza di una vita migliore, sapendo che la tua vita si debba accettare con un mondo nuovo da costruire. Sebastiano, indicaci la strada da seguire. Sebastiano, indicaci la strada da seguire.